Giovanna Gianordoli. Allora, io sono venuta qua nell'82 la prima volta, poi sono ritornata nell'87. C'erano le pluriclasse, eravamo in 3 insegnanti e i bambini, con la scusa della pluriclasse, vivevano, cioè lavoravano tanto assieme, c'era lo scambio tra le varie classi e si cercavano anche delle attività che potessero interessare un po' tutti. Avevamo un orto. Ce l'aveva dato in comodato d'uso una signora e quindi i bambini gli facevano le loro esperienze. Intanto conoscevano terreno, concimi che si mettevano, c'era un contadino qua ci dava il letame e i bambini potevano vedere gli animaletti che erano nel letame. Poi avevamo seminato il frumento, facevamo il pane e i dolci quando ero ragazzina io. Nel frumento crescevano sempre i fiordalisi, che sono dei fiori azzurri, e i papaveri, che sono tipici del frumento. E allora i bambini hanno potuto avere anche questa visione del campo di frumento, come era da quando l'uomo ha cominciato a coltivarlo. Poi i fiori sono spariti dal frumento perché quando hanno incominciato a usare gli antifitogamici, le piante sono state le prime che sono andate. Comunque i bambini di Drena le hanno sperimentate. E la scuola è qui dove siamo adesso, questa era un'aula, questa era l'aula grande dove si facevano le attività in comune. Noi eravamo una trentina, divisi in pluriclasse. Negli anni 80 non c'era la fotocopiatrice qua, noi avevamo due grandi lavagne qua, allora qui c'era la pluriclasse e allora io venivo il pomeriggio, mi scrivevo una lavagna per una classe, una per l'altra classe. Cioè la lezione era mezz'ora per mezz'ora, bisognava essere molto fiscali, preparati, mezz'ora per mezz'ora, perché un'ora non erano autonomi, non avevano da fare per un'ora. E dopo un'altra attività che abbiamo fatto sempre con tutta la classe, sfruttando molto il castello, l'abbiamo usato per 2 anni come scenografia per fare le nostre storie. La scuola qui è andata via o nel 99 o nel 2000. E sono stati portati a Dro. Un'altra cosa che abbiamo fatto, che siamo stati i primi a farla di tutto il Trentino, e abbiamo preso anche un premio per questo, abbiamo iniziato a spiegare ai bambini la raccolta differenziata. Un anno abbiamo allevato il bacco da seta, è stata lunga, non è uscito niente e le dico anche perché. E la provincia aveva fatto questo concorso, no? Allora siamo andati a Trento, ci hanno dato i semi delle farfalle in pratica, dei bruchi, 10 bastoncini così di gelso. Allora noi dovevamo venire, mettere i gelsi nel vaso e da lì sarebbero nate le foglie, però non sarebbero state sufficienti, no? Fortuna che qui in zona Luc c'erano ancora dei gelsi e allora ho usato quelli. Però l'entusiasmo che hanno messo i bambini e l'esperienza che hanno fatto penso che è stata indimenticabile, perché li avevamo allevati in quest'aula che era la più calda, quindi bisognava controllare la temperatura. Ogni 3 ore bisognava dar da mangiare. All'inizio le foglie di gelso tagliate fine, fine, fine come la cicoria, ma fine, dopo sempre un pochino più grande. E scendevo anche la sera, l'ultima volta scendevo a mezzanotte e dopo la mattina alle 6 a dar da mangiare. Cioè, è stata un'esperienza stupenda. Ah, io quando ero alunna, altrettanto, perché a me è sempre piaciuto andare a scuola. Avevo delle brave maestre, per esempio ai miei tempi, il sabato le attività manuali per noi erano ricamo e lavorare a maglia. Facevamo mica la maglia, no, però facevamo la ciappina, oppure un paio di calzettini piccolini, oppure il ricamo. Si incominciava con l'imparaticcio, punto erba, punto croce. E dopo di solito si realizzava una tovaglietta per la prima colazione. Bombardella Antonietta. Ho vissuto una guerra ultima. Aveva 5 anni, però mi ricordo dei particolari. La finiva fuori al castello, per cui chiamavano la Madonnina dopo, te ricordo. E siccome la mattina si dormiva, mio papà arriva la mattina e mi fa: fuori dal letto arriva i soldati. Ora fuori, sti puttanari, man quattro. Fuori dal letto. Va detto, soldai, va a dormire, insomma, no? E dopo un'oretta così, la guerra è finita, è venuta l'allarme da andare via. Era un paiolo così di patate per le galline, l'hanno mangiata tutti, tutta questa patatina grande così. E poi dalla fretta hanno lasciato una gamella, che dice, che la portare a mangiare. E quella l'ha adoperata mio papà perché andava con le capre, insomma, del paese e si portava dietro il mangiare. E dopo si andava avanti perché mio papà non aveva la mano destra, però di soldi zero perché non era ancora invalidità. Ha levato quattro figli e si andava avanti così. La mamma faceva delle calze per altre persone, filava la lana e così. E si andava avanti finché a 15 anni tutti hanno preso la strada per andare a lavorare, insomma, da qualche parte. Vivendo un po' anche perché i soldi non arrivava dentro. Si doveva lavorare a qualche maniera. Tempi duri sì, però la fame non l'abbiamo mai sentita veramente, ecco. Perché si allevava il coniglio, la gallina, la capra e l'inverno si uccideva quella e si mangiava, insomma. No, era la più bella vita di adesso, sicuro. Si andava nelle stalle, si faceva il filò, si lavorava a maglia e il papà o il nonno, quello che c'era, raccontava delle fiabe magari inventate, ma i ragazzi si divertivano, insomma, no? Era bello. Si andava al caldo perché le bestie facevano caldo, perché la legna era poca, le stanze erano grandi da riscaldare. Ognuno aveva la stalla, facevano i gruppi, erano tutti ospitali. Adesso bisogna chiudere le porte. Magari con l'allarme. Allora erano sempre aperti per tutti. Mancava anche la sera ora. Mancava anche la sera ora, sì. Si viveva meglio, dai, più tranquilli, poca ansia e quello che non avevi te lo aveva lei, ci aiutava tutti così, tutti Non ci d'accordo. faceva invidia, arco. Non c'era invidia per nessuno, se uno aveva la macchina, beato lui. Dopo un'altra cosa che facevano nella stalla, scartocciavano le Sì, pannocchie. anche quello. Nella stalla un'elaia. Sì, si topiva anche da lì, anche E sì. dopo, di solito, la padrona di casa, diciamo, quella che ospitava, faceva il pane. E la sera, quando avevano finito di scartocciare, mangiavano il pane per ringraziare del lavoro fatto. Dopo, un'altra sera, andavano da un'altra parte, in un'altra famiglia e prendevano il tempo Sì, così. ci aiutavano con l'altro, senza pagamento, Sì, era perché tutto i uno soldi scambio, non c'erano soldi, no? quando andavi a Ma prendere dopo la guerra. quando tenevi a Sì. tolla conserva, 5 lire, era tanta così. Era Sì. mio marito che è una signora, quella la Rosina, la mandava, va Gianni, vai a prendermi la conserva. Allora andava giù alla cooperativa che era lì a Tarcisio, no? Che aveva un busatin così. Arrivava a casa con la cartuccia solo perché la conserva le ha già mangiato. Eravamo E tre, me la anche raccontava le sigarette, sempre. no, le sigarette le vendevano una, due, tre, Si quattro. conferma il soldo che era. Sì, dopo Sì. Ma c'era proprio da tabacchino le trinciato, prendevi se li così. Sì, facevano anche. no. Io, per esempio, ho coltivato il tabacco. Non lo auguro a nessuno, però. Attaccaticcio. Sì, pizzicava In anche. estate, beh, si mettevano le piantine a dimora a distanza giusta perché era monopolio di Stato. Dopo si annaffiava e vabbè, dopo si rincalzava tutta la cura come altre piantine. Dopo, quando faceva il bocciolo, bisognava tagliarlo perché tagliandolo il nutrimento andava nelle foglie e venivano più robuste le foglie, più consistenti. Il bello era quando si doveva raccogliere. Allora si incominciava dal basso della pianta, però si dovevano raccogliere 3-4 foglie, quelle più mature, e allora di solito prendevano i bambini, perché quelli erano piccoli e riuscivano ad andare i gattoni sotto. Dopo si facevano dei pacchettini così, e dopo si tornava nella bina, nel solco, si prendevano i pacchettini, si portavano fuori e il contadino metteva in un lenzuolo di saggina. E faceva un quadrato con le piante, faceva un cubo e dopo lo portavano alla masera. Amori, noi Buono. portavano. E Amori dopo lo Non lo sapevo. infilavano, c'erano le donne, lo infilavano nei fili e lo lasciavano essiccare. Dopo quello che rimaneva sul campo, dopo l'ultimo che si raccoglieva era più comodo perché si poteva stare in piedi. Però appena finito di togliere le foglie, bisognava subito andare e tagliare la pianta perché perché avevano paura che i germogli che faceva la pianta lasciandola ancora alcuni giorni servisse al contadino da farsi il tabacco per uso proprio. E siccome era un monopolio di Stato, questo non si poteva. Però mio papà e altre persone che lo coltivavano, gli ha fregato le sciotte e fa il tabacco. Ah, e se la ritirai prima?